faccia della gente. Non siamo criminali, siamo semplici persone, sentimentali. Vieni a vedere chi sono diventato. Oggi Boss Shady si è ritrovato. Quante sorprese ho riservato. Non puoi venirmi ad arrestare senza un mandato. Che peccato. Hanno sempre cercato di incastrarmi, hanno provato pure ad ammazzarmi. Ci vuole un carro armato per farmi fuori dal gioco. Mi hanno fatto diventare cattivo, e non al dir poco. A 18 anni già con il mio primo reato, ma per fortuna non sono stato condannato. Mi sono ritrovato in un mondo sconosciuto, appena mi sono accorto di essere cresciuto. Mi sono svegliato dentro quattro mura, e all'improvviso sono finito con la gente più dura. Barra Nike, questa è la mia natura, tutti loro di me hanno avuto paura. La gente mi chiama pazzo per gioco, ma non sanno che sono veramente loco. Alla faccia della gente, non siamo criminali, siamo semplici persone, sentimentali. Vieni a vedere chi sono diventato. Oggi Boss Shady si è ritrovato. Quante sorprese ho riservato. Non puoi venirmi ad arrestare senza un mandato. Che peccato. Le ragazze mi hanno sempre amato, mi dispiace per loro che sono già impegnato. Non essere invidioso se piaccio alle donne, e tu in discoteca riesci solo a imbroccare le nonne. Mi piace andare a giro con la mia Lamborghini, sono sempre in compagnia di ragazze in bikini. Pure la madama quando mi vede muore di gelosia, non sai quante volte hanno cercato di portarmi via. Vi dico una cosa in finale, per loro io sarò sempre un criminale. Quindi rassegnati perché sei un fallito, se ti metti contro di me sei uno finito. Non ti corro dietro per nessun motivo, pregherai per avere il mio fumo passivo. Sono Boss Shady, gangster allo stato puro, definiscimi come vuoi ma rimarrò sempre un duro. Alla faccia della gente, non siamo criminali, siamo semplici persone, sentimentali. Vieni a vedere chi sono diventato. Oggi Boss Shady si è ritrovato. Quante sorprese ho riservato. Non puoi venirmi ad arrestare senza un mandato. Che peccato.